Nella rosticceria del Regina Pedoc, Anatole France racconta un particolare non trascurabile della vita di Santa Maria Egiziaca. La beata donna volle recarsi in pellegrinaggio al Santo Sepolcro e sia che non sapesse nuotare, sia che non volesse bagnarsi, si dovette arrestare di fronte ad un profondo fiume che le barrava la strada. Non avendo un soldo per pagare il traghetto, la Santa Donna offrì il suo corpo in pagamento ai battellieri, che accettarono di buon grado. Accompagnando il marito al congresso per un bel discorso sullo stato dell'Unione, un discorso interrotto da 56 applausi da seduti e da 27 ovazioni da in piedi, Hillary Clinton sembra che abbia fatto un figurone. Secondo la dotta analisi degli specialisti americani della cosiddetta immagine, la First Lady ha compiuto una performance straordinaria. Ha fatto un'entrata regale, a capo e corpo eretto, tipica di chi si sente completamente a suo agio. Chi ha un peso sulla coscienza evita il contatto d'occhi e incrocia le braccia come per chiudere il proprio corpo all'esterno, spiegano i teorici americani della comunicazione. E lei non l'ha fatto. Tutto nel suo linguaggio corporeo lascia intravedere che è innocente. Così noi comprendiamo che i discorsi sullo stato dell'Unione in realtà erano due. Uno esplicito che concerneva l'unione degli stati confederati ed uno implicito che non meno importante concerneva l'unione del presidente e della presidentessa. Un'unione che sarebbe, diciamo, parsa quantomeno compromessa da qualche speculazione finanziaria e sessuale di troppo, diciamo. Il principio è fin eccessivamente noto. Con le parole si potrebbe mentire facilmente, ma con il corpo no. La cosa ringalluzzisce, diciamo, il sogno comportamentista americano, misurare tutto e capirci qualcosa. Se è vero che vi sono segmenti corporei o attività che abbiamo imparato a controllare meglio di altre e che dunque queste altre sono potenzialmente rivelatrici di qualcosa che o non sappiamo neppure noi o non vogliamo comunque dire, è anche vero che ad ogni consapevolezza acquisita seguono nuove capacità d'inganno. Quando Sharon Stone, per citarne una non a caso, in Basic Instinct è condotta all'ufficio di polizia e fatta sedere a debita distanza, sa che i suoi movimenti sulla sedia sono filmati, prossimo oggetto di analisi, correlandole all'andamento del dialogo, in cerca da parte della polizia di un qualche segno di imbarazzo o di bugia. Lo sa come sa bene di non indossare mutandine e fa saltare tutte le analisi con tutti i loro parametri scientifici semplicemente allargando le gambe. Si era più avanti ai tempi di Maria l'Egiziaca. Allora, quando un pedaggio pagato con quello stesso corpo che oggi viene eletto ad unica cartina di tornasole non ostruiva la via alla santità. A quei tempi era nell'anima che si cercava la colpa o l'innocenza e sempre a quei tempi la strada della redenzione era più impegnativa rispetto a quella che prevede, che so, una gita al congresso o di fronte al gran giurì. Maria l'Egiziaca espiò per 48 lunghi anni nel deserto, senza i battellieri.